140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24 e la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Un titolo semplice per un album ricco di musica, poesia e umanità. Con Ecco, torna Niccolò Fabi. Il disco prima si chiamava Solo un uomo e diceva: è solo un uomo quello di cui parlo, del suo interno come del suo intorno, e continua a fare da sempre solo questo. Quindi di quello che lo rende individuo e allo stesso tempo appartenente a una società, a un tempo, a un luogo, e quindi inevitabilmente condizionato da quello che gli ruota attorno. E quindi queste altre 10 canzoni sono altre 10 osservazioni, punti di partenza per raccontare quello che un po' vedo dentro e quello che vedo fuori, e quanto le due cose sono riflesse una nell'altra, perché poi in qualche modo quello che vivi personalmente influenza il tuo sguardo nei confronti dell'esterno, e quello che vedi all'esterno finisce anche per influenzare il tuo stato d'animo e anche quindi quello che vedi dentro. Sono due cose quasi inseparabili, almeno l'ho sempre vissuta come inseparabili. C'è in una favola elementare come il sonno la domenica, elementare come un'altalena libera, elementare come un pallone. C'è anche un po' di voglia di rendere le cose più elementari e voglia di sobrietà dal punto di vista esistenziale, ma anche dal punto di vista sociale. Lo dici anche chiaramente nella prima traccia. Da una parte la prima traccia, che poi nasce da una serie di considerazioni che fa il mio amico Stefano Diana in un libro che ancora non è stato edito e pubblicato, che si chiama Il Disillusionista. E sulla inevitabile sensazione di mancanza di punti di riferimento in un momento in cui lo sviluppo, l'evoluzione è andata talmente veloce, per cui tutta una serie di ambizioni, desideri, necessità sembrano molto più indotti da altri che da desideri naturali. Cioè il mercato crea dei desideri, dei sogni, perché deve venderli in qualche modo, e il nostro essere consumatore è molto più divenuto fondamentale rispetto a quello di cui abbiamo realmente bisogno, no? Il concetto di elementarietà, di cose essenziali e fondamentali, può essere un aiuto quando uno si perde di fronte a tantissime cose che è portato a considerare importanti ma che poi naturalmente non lo sono. I grandi dolori, per esempio, servono a questo, proprio a rimettere in fila l'importanza di alcune cose e a toglierla ad altre, no? Sono stato un bambino bello, o meglio fotogenico. Ho iniziato a parlare tardi, poi non ho mai smesso. La mia famiglia era una qualunque, la mia casa era molto accogliente. Amavo tanto quei lunghi viaggi in macchina di notte. È inevitabile confrontarsi sempre col bambino che siamo stati. Il bambino bello o meglio fotogenico di cui parla sei davvero tu? Vabbè. Diciamo che tutte le canzoni, da parte di chi le scrive, non possono prescindere da una parte dal vissuto di chi le scrive, dall'altra almeno per me, diventano canzoni solo nel momento in cui il tuo vissuto personale hai la sensazione che possa essere lo spunto per parlare d'altro, per raccontare una storia che poi, cioè, è come se tu dessi delle chiavi in mano a delle persone, poi ognuno di loro deciderà di aprire la porta che vuole. Quindi in qualche modo in quella canzone è diventata canzone perché mi dava la sensazione che alcune immagini fossero un bel modo di raccontare così una serie di odori di un periodo dell'infanzia, della vita in cui la scoperta è fatta a occhi sgranati e non già disillusi e rassegnati. E quindi alcune poi così piccoli accenni tecnici a immagini di infanzia, sì, è inevitabile, le ho prese anche da me, dalla mia cosa. Comunque sì, insomma, ho vinto anche un concorso di bimbi fotogenici, ammetto. Con quella libertà speciale che ha solo un uomo di passaggio. Io sto bene quando sto lontano da me. Io sto bene quando sto lontano da me. Io sto bene quando sto lontano da me. Lontano da me. In certi momenti traspare gran divertimento e la voglia di spaziare in tante sonorità, in tante cose differenti. C'è una parte di progettualità e una parte di improvvisazione. Prima di tutto che sembra un controsenso quando dice ci vediamo stasera alle 8 per improvvisare. Dico, ragazzi, se ci vediamo alle 8 per improvvisare, che significa? Ci stiamo dando un appuntamento per fare una cosa improvvisata. Allora che è improvvisato o no? Questa sensazione di divertimento era un po' voluta, anche il fatto di aver deciso di andarlo a registrare in Salento e di partire con la macchina, cioè non neanche di darci appuntamento, cioè di partire tutti, furgone, strumenti, autostrada, casello, la ricerca del posto, la masseria, dormire tutti insieme, cioè tutta quella cosa fa sì che proprio in partenza c'era non dico il progetto di divertirsi, ma il progetto di cercare di arricchire queste canzoni da questo tipo di consapevolezza, da questo tipo di aria. Quindi quello è, credo che questa sia la conseguenza di quello che dici, cioè la causa di quello che tu dicevi. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere chiedere 20.000 cose, però il tempo è sempre poco. Allora volevo chiederti, a me sembrano passati 2 giorni e mezzo da Capelli, però invece è passato un po' di tempo. A te che effetto fa guardare indietro? Ti sembra un lungo viaggio o ti sembra una cavalcata velocissima? Entrambe le cose, ma credo come a chiunque di noi in questa stanza capiti di vedere una fotografia propria di 16 anni fa. Quante cose noi vediamo trasformate, no? In noi stessi, e quante però allo stesso tempo vediamo rimaste assolutamente identiche. Quindi forse da una parte vediamo quella fotografia e ma come mi è venuto in me, come mi era venuto in mente quell'epoca di comprarmi quelle scarpe, ma, cioè, oppure quel maglione, banalizzo in senso semplice. Però poi vedi lo sguardo è il tuo, sono i tuoi occhi, c'è il tuo naso e quelli te li porterai fino in fondo. Quindi poi ci sono, nella vita di alcune persone sono dei momenti in cui il tempo passa più veloce, altri più lento, va, no, per accelerazioni un po' discontinuo, non passa sempre alla stessa velocità. Da un punto di vista sì, mi sembra 3-4 vite fa. Sì, almeno 3-4. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Principe di Savoia, Milano. Dopo il successo di Papito, una nuova raccolta e nuove collaborazioni. Torna con Papito un artista inossidabile, Miguel Bosé. Ah, è bellissimo perché in un altro portare, aggiornare o portare ad oggi le cose che si perdono, sono state perse nel tempo mantenute nel tempo, è un esercizio fantastico. Prima per scoprire che quello che è stato tuo rimarrà sempre tuo, per sapere, per confermare che quei pezzi che sono passati alla storia, che la gente ha fatto passare alla storia, sono dei pezzi grandiosi, sempre, e che possono essere perfettamente trasportati nel tempo e essere riproposti per una nuova generazione o delle nuove generazioni come pezzi nuovi che loro ovviamente non conosco, è come se fossero pezzi scritti ieri. Sento, allora sono delle, e poi il piacere di trovarci, ritrovarsi a fare queste cose con degli amici e festeggiare, non si può chiedere di più. Creo in ti sin cegarme ni ponerte exclamación. Como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Amici che vorresti magari ritrovare con un Papi 3, lo fareste? Oh, sì, per adesso pensiamo al Papi 2, pensiamo al Papi 2 e pensiamo... Pensiamo a farlo, a tirarlo avanti e vedere cosa succede. Partito fortissimo, partito alla grande, e questo è soltanto un inizio, perché abbiamo già prenotato prenotazione per tutto per concerti per tutto il 2013. Come è successo per il primo Papito, si corre il rischio di fare una tournée interminabile, perché non finisce mai. Siamo stati quasi 3 anni. Sono stati 2 anni e 10 mesi a fare concerti col Papito 1. Per cui vediamo un po'. Ora che te busco e tu non estás, recuerdo che solo la tristezza quiere hablar conmigo. Ora che la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regazo. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga. Cosa pensi dell'Italia? Ti ha dato abbastanza in questi anni? Sì. Io direi di sì. Papito è stato un dei paesi che più ha vendite fisiche ha fatto, è andato oltre 250.000 copie, è stato enorme, in Italia è stato enorme, sì. Secondo me sono dei progetti che hanno molto a che vedere con le emozioni, con i ricordi di varie generazioni, i pezzi diventano colonna sonora di tantissima gente, per cui sì. Ultima velocissima domanda, questa volta hai scelto Jovanotti e Tiziano Ferro perché proprio loro, visto che insomma... Amici che mi mancavano nel primo, per ragioni diverse nel primo papito non sono potuti essere e ancora mancano magari degli altri che potrebbero perfettamente esserci dentro. Mancavano, abbiamo trovato i pezzi, loro hanno scelto i pezzi giusti, abbiamo trovato la forma di farli, di portarli al loro mondo, far creare questa frontiera tra il mondo mio e il mondo loro, per cui è stato possibile. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana, ma questa è anche l'ultima domenica in cui vi invitiamo a venire con noi alla Mostra dell'Anno. Una serata speciale per gli ascoltatori di Radio 24 per visitare insieme a noi con delle guide d'eccezione la mostra Picasso Capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi a Palazzo Reale di Milano. Ogni settimana abbiamo scelto un'opera di Picasso e vi abbiamo chiesto di commentarla con un tweet per conquistarvi l'accesso a questa serata speciale il 24 ottobre. L'ultima opera, ve la segnaleremo anche via Twitter, è Donna seduta davanti alla finestra. Aspetto i vostri tweet. Intanto continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteri R24, ma anche con il mio account @MartaCagnola e anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.